tempo di sport. Prima domenica di luglio e a tempo di sport sempre a farvi compagnia, in redazione Marco Lombardo, in regia Paolo Corleoni, Dario Ricci al microfono per questa domenica che vede una finale di Wimbledon, che vede uno straordinario Djokovic in vantaggio, pensato 6-4, 6-1 e su Nadal, quindi il prossimo numero uno mondiale, qualunque sia il risultato di questa finale, sta veramente dominando sull'erba di Wimbledon, ma si sa, a Wimbledon bisogna sempre aspettare prima di scrivere la parola fine. Intanto però splendido dritto di Djokovic. C'è il Tour de France col nostro testimonial, il nostro cronista d'eccezione Ivan Basso, e poi però soprattutto c'è stato il Gran Premio d'Italia del Mugello, moto mondiale, straordinaria prova di Lorenzo che vince davanti a Dovizioso, Stoner, Spies, un cauto Simoncelli al quinto posto e poi sesto Valentino Rossi. E allora apriamo subito la pagina dei motori. Sport e motori. Eccoci qua, brombano i motori, soprattutto quello di Jorge Lorenzo, e lo chiedo alla voce dei motori di Radio 24. Benvenuto Mario Poltronieri. Buongiorno a tutti, ciao Dario. Mario, ci siamo divertiti oggi, quella del Mugello mi è sembrata la gara più bella dell'anno, direi. Sì, è stata bellissima. Diciamo che la prima parte sembrava che la situazione si fosse determinata con Stoner davanti, poi Lorenzo, poi Dovizioso, eccetera, e quindi c'era il tempo in un certo senso di apprezzare le qualità non solo scenografiche ma di quel circuito. Noi che siamo abituati a vedere quei circuiti piatti insignificanti, qui è un saliscendi continuo, direi il più bel circuito che c'è, che rispetti la tradizione dei grandissimi come era una volta a Spa di 14 chilometri, come era il Nürburgring di 22,8, e quindi quello era già gratificante. Poi è cominciata la battaglia e lì bisogna dire è stato veramente un entusiasmo unico, non solo per il secondo posto che ha conquistato Dovizioso, io credo, detto tra parentesi, scontentando ovviamente i capi onda, però è stata una gara importantissima per lui perché è riuscito finalmente a dimostrare il suo livello anche come grinta. Questo per lui vuol dire aver cominciato una nuova carriera. Per quel che riguarda Lorenzo, si è dimostrato come al solito un grandissimo pilota e adesso ha una macchina che va anche molto forte, perché direi che sul livello della Honda, se non addirittura di più, sembra addirittura più maneggevole della Honda. Quanto a Stoner, che adesso deve cominciare a preoccuparsi per quel che riguarda il suo campionato, perché gli sono rimasti solo 19 punti di vantaggio su Lorenzo e, se non sbaglio, 33 su Dovizioso. Quindi, ma come al solito non sbagli, perché classifica mondiale che vede Casey Stoner a 152 punti, Lorenzo 133, Dovizioso 119, Valentino Rossi a 91. Mario, parliamo un attimo proprio degli altri due italiani. Simoncelli quinto, oggi fin troppo cauto, è intimidito da settimane di polemiche e incidenti, e Valentino Rossi sesto. Partiamo da Supersic. Ecco, infatti Supersic ci aspettavamo che facesse una corsa così, perché la preoccupazione di avere qualche ulteriore problema a Natale, che essendo un personaggio anche semplice, di buon temperamento, ma forse abbastanza emozionabile ancora, trovandosi in una barca così importante, io penso che si sia posto un freno e che quindi non abbia mai avuto quello slancio, quella libertà di buttarsi come fa di solito e di cercare di prendere i primi o addirittura di cercare di prendere la testa, perché quando in questi giorni tutti gli hanno consigliato guarda parti tranquillo, mi raccomando stai attento il primo giro, invece il primo giro purtroppo è determinante per poi vedere come fai la corsa, non dico che sia determinante come Formula 1 ma sicuramente anche nella moto. Difatti, se ricordiamo Valentino Rossi, poi parliamo anche di lui, se ricordiamo Valentino Rossi dei tempi passati, aveva difficoltà in partenza e partiva sempre malissimo, solo che aveva una moto alta e una classe che ancora oggi non si discute. Quindi importante secondo me è partire bene anche al primo giro, cercare di non perdere più di 3 posti. Questo per quel che riguarda Simoncelli, però direi certo che ha rotto il ghiaccio e adesso può permettersi di correre insieme agli altri. Per quel che riguarda Rossi, il problema è estremamente delicato, perché è chiaro che quando si è detto facciamo il binomio italiano pilota macchina, si sperava ovviamente che lui riuscisse a trovarsi una Ducati che andava come andava quando c'era Stoner. Questo non è riuscito e adesso faticosamente stanno cercando di portarla a un livello di alta competitività. Lui continua ad andare benissimo, perché in prova fa il 12°-13° tempo, poi durante la gara macina chilometri e avversari e riesce ad arrivare abbastanza vicino, se così si può dire, non tantissimo ovviamente, perché i distacchi sono già consistenti, però insomma è una fase molto delicata questa. Direi che per la Ducati è un po' quello che è per la Ferrari. La Ferrari domenica prossima, infatti, le russe è un'annata di sofferenza. Ma guarda, ti dirò che la prossima gara, facciamo un breve excursus nel quattro ruote, la prossima gara Silverstone è determinante. Lo ha detto anche Montezemolo, che era appunto al Mugello. Questo circuito Silverstone per noi non è favorevole. Perché? Perché è un circuito ad alta velocità dove l'aderenza data dall'aerodinamica è fondamentale. E questo è uno di, diciamo, il punto debole della Ferrari. Se la Ferrari riesce, e soprattutto Alonso, riesce a Silverstone a tenere il passo dei primi e arrivare magari al podio, ecco che vuol dire che la stagione si può riaprire. Se no, è chiaro che conviene buttarsi sulla nuova macchina e con questa fare sperimentazioni, eccetera. Tra l'altro sarà una gara interessante da seguire, anche perché entra in gioco il nuovo regolamento che vieta gli scarichi che soffiano. Infatti, così anticipi Mario anche la domanda che ci arriva al 349-238-6666 da un ascoltatore: in cosa consistono le modifiche aerodinamiche che saranno introdotte a Silverstone? Andranno a penalizzare l'arma segreta della Red Bull? Ecco, rispondici un po', dici un po'. Teoricamente sì. Però la mia impressione è che il vantaggio della Red Bull è globale, è una storia vecchia, insomma, quando si cerca di copiare un avversario, era una battuta di Briatore, dice se uno vince e lo copi, se va bene arrivi sesto. Quindi la Red Bull, cioè Adrian Newey, è riuscito a fare una macchina sicuramente molto estrema. Però credo che il discorso degli scarichi soffiati, cioè che dovrebbero servire ad aumentare appunto la famosa depressione e quindi a avere uno schiacciamento a terra, ossia una maggiore efficienza aderenza, perché efficienza aerodinamica è un'altra cosa, credo che non sia così rilevante da poter cambiare radicalmente la scala dei valori, perché non dimentichiamoci che Alonso va molto forte, ma Vettel è un macinatore insomma. Poi ecco, quindi, i chilometri li fa lui al volante, nel senso che ci mette tanto del suo e raramente sbaglia, non sempre è il Canada, ecco. Che forse lì è stato anche un errore, magari di eccesso di fiducia. Io in Vettel non ho mai visto un attimo di incertezza o di cedimento. Quindi nel campo della moto, se ci pensiamo bene, li vediamo, lo stesso Lorenzo vincente, li vediamo sia nei momenti di buon umore, sia nei momenti di sconforto, sempre estremamente sensibili. Mentre Vettel è un teutonico assoluto. È veramente freddo come quasi uno Schumacher. Senti, Mario, prima di salutarti però voglio fartele sentire un po' di voci dei protagonisti di oggi, partendo proprio da Lorenzo, da quei sorpassi che ha fatto la curva di Casa Monica, che di fatto ha trasformato nel suo salotto di casa oggi. Allora sentiamo proprio Jorge Lorenzo. Quell'adelantamiento l'ho studiato un po' abbastanza prima con Andrea, perché Andrea staccava molto forte alla prima staccata, la prima curva in San Donato, anche staccava molto forte in qualche staccata media, non tanto forte, allora l'unica opzione che teneva era sorpassarlo in Casanova Sabelli, quella di Cesa, e visto che si poteva fare, e dopo quando è arrivato a Casey l'ho fatto un'altra volta. Una carrera molto dura, però alla fine quelle sorpassi hanno valido la pena. Valsa la pena, sì. Dicevamo di un Dovizioso che in questo mondiale ci crede e lo dice lui stesso per primo, quindi aumenta la convinzione. Sentiamolo sempre al microfono di Italia 1. La situazione in onda non è ben chiara perché ancora non hanno stabilito il budget del prossimo anno. Diciamo che cerco in tutti i modi di creare problemi alla Honda per il prossimo anno, per la posizione, per avere una moto ufficiale. Penso che la gara di oggi ha fatto capire molto, è una pista difficilissima, è una pista che ho sempre fatto molta fatica. E questo vuol dire che in lista ci siamo. Chiesi e Lorenzo sono veramente fortissimi, l'abbiamo visto anche oggi, l'abbiamo visto tutta la parte del campionato, però siamo lì anche noi, quindi ci sono tante gare, l'importante è crederci, dopo possono succedere tante cose. Ultimo, buon ultimo, ma sesto sul traguardo, Valentino Rossi, che fa così il bilancio della sua prova sulla Ducati. Ho avuto un po' di problemi con la frizione in partenza e anche durante la gara, mi rimaneva in folle e quindi ho perso anche tempo per sorpassare, perché alla San Donato non sapevo mai come andava. Però vabbè, anche se non avessi avuto quei problemi lì, il distacco da quelli davanti rimane troppo grande, è dura. No, speravamo di andare un po' meglio qui al Mugello, anche perché con la 1000 avevamo girato piuttosto bene, solo che l'asfalto nuovo aiutava tanto e infatti volevamo vedere quanto giravano quegli altri, e quegli altri sono arrivati e hanno girato più forte loro con l'800 che noi con la 1000, quindi sarà dura. Sarà dura, sì. Mario Poltronieri, allora grazie per essere stato con noi, ci ritroviamo domenica, che c'è la Formula 1. Altro. Benissimo, allora chiudiamo la parentesi dei motori. Sport e motori. Allora, ancora qualche istante prima di una pausa per il traffico, giusto il tempo per un aggiornamento da Wimbledon. Djokovic conduce 2-7-0, 6-4-6-1, ma Nadal avanti 3-0 nel terzo set, quindi finale ancora tutta da scrivere. Per il calcio vi ricordo che c'è sempre la Coppa America, stasera esordio del Brasile contro il Venezuela, poi nottata Paraguay-Ecuador, e occhio anche alla trattativa dell'Inter per il talento del Vélez Alvarez, che sembra sempre più vicino ai nerazzurri. Staremo a vedere. Ora una breve pausa, poi Tour de France e Wimbledon. Strade in diretta. Sull'autosole code da smaltire dopo un incidente tra Firenze Sud e la 11 Firenze Mare verso Bologna. Un altro incidente sulla 12 Genova-Livorno, code fra Genova Nervi e Genova Est per chi proviene da Livorno, e poi code per il traffico fino al bivio per la 7. Traffico intenso lungo la 10, Genova Ventimiglia, code a tratti fra Pietra Ligure e Savone, fra Renzane e il bivio per la 26 dei Trafori verso Genova. Trafficata anche la 14 Adriatica con code a tratti tra Faenza e Imola in direzione di Bologna. Al traforo del Monte Bianco circa mezz'ora di attesa all'altezza dei pedaggi per l'avaria di un mezzo pesante, mentre sulla 5 code di circa un chilometro per lavori tra San Vincent e Ver in direzione Torino. Infine rimane chiusa per la manifestazione dei Notav la 32 Torino-Bardonecchia tra Vigliana Ovest e Bardonecchia in entrambe le direzioni. È tutto, a più tardi. Promo 24. Il sughero protegge il gusto e si prende cura delle cose buone. Aprire una bottiglia di vino tappata con il sughero non è un semplice gesto, ma molto di più. Si promuove la cultura e la tradizione del mangiare e bere bene. Il sughero è l'unica soluzione naturale per conservare il vino, ha caratteristiche che nessuno riesce a imitare o superare. È l'unico materiale che favorisce la corretta evoluzione e conservazione del vino. Scegliendo di aprire una bottiglia di vino col tappo di sughero, si protegge il gusto, lo charme e il pianeta. Il mondo del sughero è su Facebook, alla pagina Io sto col sughero o sul sito ilsughero.org. A tempo di sport. Domani abbiamo una cronosquadre, è un giorno molto importante per la fisica generale. Noi dell'Olympic Cannondale abbiamo un'ottima squadra, quindi siamo molto fiduciosi di fare una buona prova. E questa è la voce del nostro cronista d'eccezione dalle strade del Tour de France, ve lo ricordo, quest'anno gran colpo di Radio 24, perché è Ivan Basso il nostro inviato d'eccezione al Tour de France. Ogni sera per tutto il tour, dopo il GR delle 19, appuntamento speciale con Ivan Basso, che ci racconta le emozioni, le sensazioni della corsa, le aspettative di chi questa maglia gialla vuole acciuffarla. E allora oggi in programma c'era la cronosquadre all'Esars, 23 chilometri, seconda tappa, dopo l'apertura col botto di ieri, no? Botto reale per Contador che è caduto, ha perso oltre 1 minuto e 20, e botto metaforico perché è una caduta che ha in qualche modo già rivoluzionato la classifica. Oggi, dicevamo, sentivamo l'aspettativa di Ivan Basso per questa cronosquadre, Pier Augusto Staggi, l'altra nostra grande voce del ciclismo dalle strade del Tour de France. Beh, Pier Augusto, questa cronosquadre come è andata, come sta andando? Beh, guarda, devo dire che ci aspettavamo di più. Non è andata bene per Ivan e anche per Damiano Cunego. La Liquigas e la Lampre hanno fatto una prova discreta, ma sicuramente non sufficiente per contrastare dei grandi team come appunto il team Garmin, che al momento al tempo migliore, e anche il team Sky, che è secondo in classifica. Ma diciamo, parlando chiave classifica generale, adesso manca ancora, ad esempio, deve finire la prova la Radio Shack, che ha due uomini di classifica che ambiscono a vincere il Giro di Francia, come Levi Leipheimer e Andreas Klöden. Manca l'HTC di Mark Cavendish, manca soprattutto il team Leopard dei fratelli Gilek. Sta partendo in questo momento dai blocchi di partenza la penultima formazione in gara, che è la BMC di Cadel Evans, che ha 3 secondi da maglia gialla Philippe Gilbert. Appunto, l'ultima formazione a scattare sarà la Omega Pharm del campione del Belgio. Tornando al discorso di prima, è che oggi, dopo una giornata positiva, perché Contador, come hai ricordato tu, ieri ha vissuto una giornata molto sfortunata e ha perso in pratica 1.14 rispetto a tutti gli avversari, compreso Basso e Cunego, oggi Basso deve cedere all'avversario spagnolo 29 secondi, che non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi. Anzi, sulla carta, la vigilia di questa prova, Ivan era molto ottimista, sperava addirittura di incrementare il vantaggio grazie proprio a questa prova contro il tempo, che l'aveva provata e preparata con la solita precisione e la solita attenzione. Però niente, non hanno trovato i ritmi, non hanno trovato la giusta armonia. Lui alla fine della prova ha ammesso con molto candore, con molta serenità, ha detto: siamo andati piano, non ci sono scuse, non c'è stato un problema di vento, non c'è stato alcun problema. È stato un problema di sole gambe, insomma. Purtroppo nel ciclismo queste volentieri contano, e le gambe fanno la differenza, e oggi devo dire che siamo un pochino così amareggiati, perché ci eravamo fatti la bocca ieri dopo una giornata certamente positiva, un tour che logicamente era appena partito, quindi è lunghissimo, può succedere di tutto ogni giorno, e ieri la dimostrazione è stata chiara. Però oggi ci aspettavamo qualcosa di più, invece dobbiamo semplicemente riporre nel cassetto questo ordine d'arrivo un po' laconico, un po' mesto, e sperare da domani di inventarci qualcosa per poter recuperare e comunque rimanere davanti a Contador, anche se... Beh, Contador è quasi una sfida, scusate ti interrompo, è quasi una sfida che senti a livello nazionale, perché ti sento quasi in bici con gli azzurri. Sono talmente pochi, Dario, la verità è che abbiamo due squadre qua in Francia, abbiamo appunto la Liquigas Hyundai e la Lampre SD, abbiamo due campioni riconosciuti che sono Ivan Basso e Damiano Cunego, più Alessandro Petacchi per le volate. In totale in questo twin, su 198 partenti, ricordiamo, sono 15 italiani, quindi non sono tantissimi, e quindi quando si è in questo grande paese, quando siamo in questa nella gara più importante del ciclismo mondiale, diventiamo forse un pochino più nazionalisti tutti, me compreso. No, va benissimo, ci piace così, Pier Augusto, non mollare adesso, nessuno meglio di te sa che il tour è un grande romanzo e stiamo sfogliando appena le pagine iniziali. Allora, lasciamo la Vandea e Pier Augusto Staggi, che poi ritroveremo nei nostri notiziari, e ci spostiamo a Wimbledon. E questo è il match point che ieri ha regalato alla ceca Kvitova contro la Sharapova la prima vittoria a Wimbledon nella sua carriera, e oggi finale maschile dall'esito finora imprevisto, perché Djokovic è in vantaggio per 2-7-0 su Nadal, 6-4-6-1. Nadal però nel terzo set in vantaggio 4-1. Corrado Barazzutti, te l'aspettavi questo andamento così sorprendente di questa finale? Beh, insomma, ancora una partita che non è finita. Il match è ancora lungo, Nadal ha rimontato, diciamo, questo secondo set, adesso vedremo se riuscirà a vincerlo, però insomma, partita che si presentava equilibrata, ci può anche stare, insomma, che Djokovic vinca questo match, quindi diciamo che era diciamo più la curiosità, almeno da parte mia, di vedere chi sarebbe stato, chi sarà il vincitore di questa partita. Quindi insomma, che Djokovic possa battere Nadal è assolutamente possibile. Corrado Barazzutti, vale la pena ricordarlo, Coppa Davis del 76 nel palmarès, CT delle squadre azzurre di Coppa Davis appunto, allenatore di Francesca Schiavone, poi taglio un po' il palmarès altrimenti finisce il programma. Corrado, è vero, Djokovic può battere Nadal, però forse non lo si pensava così competitivo all'atto finale sull'erba di Wimbledon, no? Beh, insomma, Djokovic quest'anno, intanto ricordiamo che Djokovic è la prossima settimana è numero uno del mondo, quindi che quest'anno ha battuto diverse volte, più di una volta, Nadal. Quindi dopo la Coppa Davis vinta dalla Serbia, insomma, Djokovic sta correndo rapidamente e è arrivato a raggiungere il primo posto della classifica mondiale. Insomma, sta giocando quest'anno molto bene, è il giocatore più forte. Questo torneo, comunque vadano le cose, per lui è appunto il coronamento di una stagione che lo vede il più forte giocatore del mondo, quindi perché no anche vincitore di Wimbledon. Tra l'altro adesso 4-1 sempre Nadal, 40-30 per lo spagnolo che ha un'altra palla break. Ecco, per riaprire questa partita che, come hai detto giustamente, non è certo chiusa, suggerimenti per Nadal, come potesse sentirti? Ma no, suggerimenti per Nadal, insomma, Nadal credo che sappia perfettamente come deve giocare questo match. Il problema di Nadal è più che altro contrastare un Djokovic che quest'anno è in grandissima forma, che sembra aver finalmente maturato, perché Djokovic è anni che diciamo che può diventare numero uno del mondo, e negli ultimi due anni quantomeno era lì numero 3, numero 4 del mondo, ma non riusciva a, diciamo, in qualche maniera a tirare fuori tutto il suo talento. Quindi adesso è numero uno del mondo, quest'anno sta giocando davvero molto bene. Credo che Nadal sappia perfettamente come giocare contro Djokovic, ma certamente questo Djokovic di quest'anno, di questo ultimo periodo, è un giocatore decisamente molto molto più forte di qualche anno fa. È un giocatore che gioca con i piedi ben piantati sulla riga di fondo, non lascia spazi agli avversari, non arretra, voglio dire, gioca sempre perennemente in pressione, serve molto bene, quindi insomma è il giocatore più forte del mondo in questo momento. D'altra parte, voglio dire, Nadal è un giocatore che lotta come un gladiatore dall'inizio alla fine, e che comunque non credo che lascerà questa partita tanto facilmente al suo avversario. Certamente per il momento forse quello che ho visto è che ha servito molto bene per un certo periodo di tempo, ma poi alcuni game, quelli importanti, ha servito un pochino peggio, ne ha approfittato Djokovic. Certo, dovrà servire molto bene in modo da non lasciare troppi, diciamo, speranze a Djokovic di poter fare il break e quindi sperare in un calo del suo avversario. Però insomma il match è estremamente secondo me equilibrato. Assolutamente, Corrado. Allora ti lasciamo a goderti la finale. Intanto Nadal 5-1 nel terzo set. Per A Tempo di Sport è tutto per oggi. Un grazie a Marco Lombardo in redazione e a Paolo Corleoni in regia. Un saluto da Dario Ricci.